gentlemen, may I have your attention, please? This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it. Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com. Italy, yeah, I love Italy, con Andy Mangiarotti su Radio Miami, I love Italy. Questa è I Love Italy, in onda su RMI, Radio Miami International, sulla frequenza dei 15.770 kHz. Il mio saluto vi giunge qua dallo studio dell'Oltrepò Pavese, per l'esattezza studio di Broni, in provincia di Pavia, Italy. Io sono Andy Mangiarotti, abbiamo fatto del restyling al nostro studio, abbiamo cambiato un po' di oggettistica, tra cui anche il vecchio mixer della sede. Ora ne abbiamo uno nuovo analogico, spero si ascolti bene la mia voce nella nostra magica frequenza di Okeechobee in Florida, dove appunto Radio Miami International ha le sue poderose antenne che coprono tantissime tantissime nazioni. Che cos'è I Love Italy? I Love Italy è una trasmissione che dura 15 minuti, ovviamente su Radio Miami International, e noi parliamo dell'Italia, un po' di tutto, notizie di oggi, di ieri, passato, presente e futuro della nostra bella nazione. Si parla di tutto, si parla anche di personaggi che hanno reso grande la nostra nazione. Nel mese di agosto abbiamo parlato del grande Olivetti, precedentemente anche di Silvio Berlusconi. Adesso parliamo di un grande personaggio della moda internazionale, soprattutto della firma Made in Italy. Però prima abbiamo dei saluti da fare, giusto dopo questo jingle. This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it. Vi dicevo che abbiamo dei saluti da fare, alcuni amici che ci hanno scritto. Ci ha scritto un amico dall'Algeria, vado a recuperare il nome, che si chiama Abdellan Ak El Madia, il cognome. E lui invece ha ascoltato la mia piccola web radio e quindi ci tenevo a salutarlo nel caso fosse all'ascolto. Comunque, in ogni modo, ho fatto pervenire anche a lui il gadget ufficiale di I Love Italy. Attendiamo la risposta da questo amico che ci ascoltava dall'Algeria. E poi un saluto, come sempre, al nostro caro amico cinese, fedele ascoltatore dei programmi di Radio Miami International. Salutiamo Ding Lun, che spesso e volentieri ci ha fatto più volte rapporti di ricezione di Radio Miami, e lui mi scrive anche che ascolta tantissimo la nostra emittente, soprattutto nell'arco della nottata o del giorno, a seconda di quando riesce a ricevere il segnale di Radio Miami International. Vi leggiamo anche il suo ultimo rapporto di ricezione, che è datato 9 settembre 2023. Ore 21:15 UTC, frequenza 15.770 kHz, apparecchiatura di ricezione Radio Texun PL 310 ET con antenna esterna, luogo di ricezione appunto Cina, dalla provincia dello Yangjin, appunto in Cina, ricezione ordinaria, riesco a sentire l'audio, ma c'è un po' di rumore in sottofondo, molto probabilmente era il nostro vecchio mixer che ci ha abbandonato. Spero che ora il rumore di sottofondo sia scomparso e che si possa ascoltare discretamente. Un salutone quindi al nostro affezionato ascoltatore dalla Cina, appunto da questa bella città della Cina, Ding Lun. Ora ragazzi e ragazze, vi spieghiamo come si fa anche voi, se volete, se avete voglia e tempo e pazienza di scriverci, per farci un rapporto di ricezione. Allora, potete scrivere tranquillamente, se siete telematici, tramite email all'indirizzo andrea@mangiarotti.org, oppure visitare i miei siti voiceofitaly.it e andreamangiarotti.com. Lì ho spiegato un po' tutto, c'è riassunto proprio tutti i miei programmi che faccio in etere, e soprattutto questo bel programma che faccio in giro per il mondo grazie a Jeff White, che ci concede i nostri 15 minuti in lingua italiana, direi preziosissimi. Quindi scriveteci se volete. E poi abbiamo anche l'indirizzo della radio, wrmi.net. Se accedendo al portale di Radio Miami c'è una sezione dedicata a rapporti di ricezione, voi potete inviare direttamente a Radio Miami il vostro rapporto online e poi riceverete in automatico una cartolina QSL bellissima di Radio Miami che ritrae proprio la contea di Okeechobee. Ci sono anche i coccodrilli, io ne ho ricevuta una molto bella con le antenne poderose di Radio Miami. Quindi aspettiamo i vostri rapporti di ricezione, e se come me adorate scrivere, magari per ricevere il vostro rapporto di ricezione proprio in formato cartaceo, sentite come la carta che si usava una volta, potete scrivere a Double RMI PO Box 526852, Miami Florida 33152, Stati Uniti d'America, così almeno riceverete la vostra cartolina QSL. Un ringraziamento veramente a Jeff White, che grazie a lui tiene proprio viva le onde corte con un sacco di frequenze e con un sacco di bellissimi programmi in tutte le lingue del mondo. Grazie veramente a Jeff. E per gli amici invece che magari vogliono mandarci un messaggio WhatsApp o Telegram, lo possono fare. Ora vi facciamo dire il numero della nostra messaggistica WhatsApp e Telegram dalla voce bellissima di Daniela. Studio Pirata oltre Pop Avese, 377 45 63 033, 377 45 63 033, i vostri messaggi WhatsApp o Telegram. Mi raccomando amici, solo messaggi WhatsApp e Telegram, e noi li leggeremo in onda. Potete mandarci anche dei vocali, dei rapporti di ricezione, fate voi, noi siamo qui a completa disposizione. Sto guardando l'orologio, veramente il tempo corre, e ora è arrivato il momento di introdurre il personaggio della settimana. Di che cosa parliamo quest'oggi a I Love Italy? Vi raccontiamo la vita straordinaria di Giorgio Armani, stilista e imprenditore italiano. Apro una parentesi: Giorgio Armani è nato l'11 luglio del 34 a Piacenza, ma ha una bellissima residenza proprio qua dove noi abbiamo gli studi, qua nell'Oltre Pop Avese, a Veroni, gli studi dislocati di Radio Miami. Anche il Times se ne è occupato, appunto citando questa bellissima villa di proprietà dello stilista Giorgio Armani. Andate a recuperare magari sul sito del Time questo bel articolo che parla un po' di questa villa, di quello che c'è dentro, dell'immenso parco e anche di alcuni animali esotici che lui tiene proprio in questa villa qua da noi, dove abbiamo la sede di Radio Miami, sezione Italia, a Broni, appunto, in provincia di Pavia. Vi dicevo, Giorgio Armani è uno stilista piacentino. Permettetemi anche di dire una cosa, che Giorgio Armani voi lo vedete così, magari lo immaginate come una persona, uno stilista importante, e invece pensate che fino a qualche anno fa si vedeva proprio al mercato cittadino Armani e stringeva mani, firmava autografi, per dirvi che insomma è una persona giulla alla mano, anche se comunque è uno degli uomini sicuramente più ricchi del pianeta, però è una persona molto umile e giulla a mano. La sua ricchezza infatti è ammonta circa 11 miliardi di dollari, pensate un po'. Nel 2000 ha dichiarato un reddito imponibile di 167 milioni di euro. Cresciuto a Piacenza, Armani si trasferisce a Milano con la famiglia, era il 1949, studia al liceo scientifico Respighi e si diploma al liceo Leonardo da Vinci nel 1953. Inizialmente si iscrive alla facoltà di medicina presso la statale di Milano, ma interrompe gli studi dopo 3 anni a causa della chiamata di leva. Dopo il servizio militare Armani trova lavoro come commesso per la Rinascente, era il 65 appunto a Milano, e successivamente viene assunto da Nino Cerruti per lavorare sulla moda del marchio Hitman e le confezioni dei prodotti dell'anificio Fratelli Cerruti. Nel 1974, si può dire l'anno chiave, Armani fonda l'azienda e presenta la sua prima collezione, era 75. Sergio Galeotti, suo compagno della vita, è coinvolto nel lancio dell'azienda. Nel corso degli anni Armani ha ampliato la sua attività con accordi di produzione e distribuzione che riguardano appunto diverse tipo di catene, cioè le Armani collezioni, e poi c'è anche gli occhiali proprio prodotti da lui, gli occhiali Emporio Armani. Oltre alla moda, Armani è anche noto per la sua linea di profumi, tra cui Acqua di Gio e Black Code. I suoi marchi più famosi includono anche, come ho detto in precedenza, Emporio Armani e Armani Jeans. Nel 2000 al Museo di New York ha dedicato una retrospettiva proprio per Giorgio Armani. Nel corso degli anni ha aperto un po' boutique in tutto il mondo, soprattutto negli Stati Uniti. È diventato anche ambasciatore del movimento Internet for Peace, con l'obiettivo di candidare proprio Internet, il web, al premio Nobel per la pace nel 2010. Ma non solo, è stato anche un musicista, pensate un po'. Giorgio Armani ha anche composto alcuni dischi del genere ambient, chill out, elettronica e anche sperimentali, intitolati appunto Emporio Armani Caffè, divisi per diversi volumi, quindi non solo moda ma anche musica. Poi ha aperto diverse botteghe, come vi ho detto, un po' in tutto il mondo, anche in Italia, in via Condotti a Roma, la famosissima boutique di Armani. E così via. Armani è una figura di grande importanza nel mondo della moda, con una carriera di successo e un'importanza significativa veramente nell'industria italiana e nel mondo. La sua azienda conta e continua a essere un punto di riferimento nel campo della moda veramente internazionale. Bene, quest'oggi cari amici e cari amiche, qua a Radio Miami International abbiamo fatto questa bella monografia dedicata a Giorgio Armani, quindi spaziamo dall'industria, dagli uomini d'affari invece ai grandi nomi, le grandi firme della moda made in Italy nel mondo. Io ho finito, ringrazio Jeff White per questo spazio prezioso, vi aspetto prossimamente a Dio piacendo, sempre su Radio Miami International, sulla mitica e unica frequenza veramente dei 15.770 kHz, ascoltata in moltissime zone del mondo, quindi arriva fino alla Cina, Giappone, Corea, Est Europa, Stati Uniti, America Latina, quindi grazie veramente a Jeff per questa opportunità unica per permettermi appunto di parlare della mia amata Italia. Da Andrea veramente tutto, cediamo la linea allo studio centrale di Okeechobee e con altre trasmissioni che vi attendono. Un salutone, ciao, grazie, un abbraccio da Andy Mangiarotti. This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it. www.andreamangiarotti.com. I love Italy. Yeah. I love Italy. Mangiarotti su Radio Mai. Miami. I love Italy.